We heat up the material up to 1,000 or 1,100 and keep it at that temperature for several hours. During that process, we can change the material, the harmful materials, disappear the materials, lock them, and during it becomes actually synthesized, and the materials, the harmful materials disappear and immobilize. Allora, questo signore che sentivate parlare si chiama Abbas Mojerani, ingegnere della Hermit University in Australia, e come avete sentito era ossessionato da questa presenza un po' ovunque di mozziconi di sigaretta. Nel mondo se ne producono, pensate un po', qualcosa come 2 milioni di tonnellate l'anno. Ebbene, questo Mojerani ha dimostrato come, inglobando in percentuali anche minime l'1% in peso all'impasto dei normali mattoni, questi mozziconi di sigaretta, si ottengano mattoni molto più leggeri che possono richiedere fino al 58% in meno di energia per la produzione e anche decisamente più isolanti, mentre le sostanze nocive contenute nei mozziconi vengono o distrutte nel processo di produzione dei mattoni o intrappolate in modo stabile e definitivo. Ecco, ma dopo aver fatto il giro del mondo, torniamo a casa per chiederci se anche nel nostro paese ci siano iniziative simili volte al recupero di rifiuti a cui dare una seconda vita nel mondo dell'edilizia. Ne parliamo con Marco Imperadori, che è professore ordinario di produzione edilizia presso il Politecnico di Milano e che soprattutto è stato tante volte il nostro ospite. Buonasera Marco. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti i radioascoltatori di Smart City. Allora, c'è qualche esperienza un po' come quelle di cui abbiamo parlato, quindi mattoni a base un po' di tutto anche in Italia? Ma sì, io vedo tantissimo, vedo diciamo la potenzialità per l'edilizia di diventare un luogo dove inventarsi nuovamente in un momento di crisi, e l'invenzione sta nel trovare nuove risorse. Queste risorse non vengono più da materia prima, ma vengono da materia seconda, quella che si dice contiene un'energia grigia. Ecco che questa grigiore dell'energia ritorna dove? All'interno di nuovi componenti, come i mattoni, che di fatto sono il primo prefabbricato della storia, se ci pensiamo. Certo. No? Perché l'uomo così definisce un modulo, questo modulo lo ripete e riesce a costruire diversamente rispetto a prima, dove viveva in una caverna o in una capanna di legno. Ecco che quindi questi mattoni oggi, tecnologicamente nuovi e reinventati, possono contenere delle fibre che sono fibre sintetiche oppure anche fibre da riciclo e scarto naturale. Penso alla pulla di riso, a fibre di tipo diciamo paglia o altre cose. Quindi ci sono casi di questo tipo un pochino più biologici, alcuni invece sì. Si spingono verso. In alcuni casi c'è un approccio molto artigianale, diciamo, a volte forse anche un po' sognatore, ma ci sono anche approcci. Così. Direi che la cosa più interessante per noi forse è vedere l'aspetto meno quello un po' più industriale, sì, esatto, che esatto. Capisce che la risorsa è presente, perché nell'antropocene ci siamo purtroppo, dobbiamo pensare in primo luogo a risparmiare, a non consumare, però il mondo non si ferma oggi. Quanti di noi bevono? Quante bottigliette di PET al giorno? Fate certo. Il calcolo, ascoltatori. E cosa succede di queste bottigliette di PET? Certo, se vengono bruciate producono energia, ma poi chiediamo sempre un debito alla terra, mandiamo in atmosfera diciamo quello che una volta era petrolio. E invece se pensiamo che questo PET triturato diventi fibra, diventi altro, ecco che otteniamo, e lo compattiamo in blocchi, ecco che otteniamo nuove diciamo potenzialità. Tra l'altro aggiungiamo che la plastica, quella non riciclabile naturalmente, la parte meno pregiata, se invece di essere bruciata finisce in un mattone, è un modo anche di sequestrare la CO2, no? Addirittura si potrebbero fare costruzioni a CO2 negativa da questo punto di vista. Anche, possiamo diciamo immaginare l'edilizia come un luogo chiaramente un carbon sink, salvaguardando certo, la salute di chi quindi, ci vive. Quindi deve essere rigoroso questo controllo, che quindi i componenti non siano per niente tossici o altro. Sì, le scorie radioattive non vanno bene, per esempio. Ecco. Rido, però è evidente. Però ecco che potrebbero sequestrare, ecco, dici tu bene, no? Noi sappiamo che l'entropia dell'universo è in continua espansione, non possiamo sottrarci a questa legge, però possiamo, sfruttando energie al di fuori tra l'altro del pianeta Terra, quindi il sole o il sole e il vento, cercare di ridurre l'entropia di ciò che noi produciamo e scartiamo, quindi ricompattarle. Quindi possono queste ceneri diventare mattoni, e i mattoni compattati costruzioni o blocchi o altro. Quindi io credo che questo sia un cambiamento di paradigma interessante, e quindi a me piace ragionarci. Allora, ci fermiamo qui per il momento, andiamo a sentire come va sulle strade, fra pochi minuti torniamo a parlare di come trasformare i rifiuti in case. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono, mentre al telefono c'è il nostro ospite di questa sera, Marco Imperadori, professore del Politecnico di Milano, con cui proseguiamo questo speciale Smart City dedicato ai tanti progetti che in Italia e nel mondo mirano a trasformare i rifiuti in nuove materie prime per il mondo dell'edilizia. Allora Marco, abbiamo parlato nella prima parte di mattoni realizzati con ceneri, con plastica, plastica da buttare via, assolutamente non riciclabile, mozziconi di sigaretta, paglia di riso, oltre ai mattoni, ecco, insomma, possiamo fare altri esempi di materiali difficili da smaltire che possono trasformarsi in nuova materia prima per l'edilizia? Beh, sicuramente. Noi abbiamo avuto la fortuna di incrociare delle situazioni molto interessanti. La prima ce l'abbiamo vicina perché Italcementi, il gruppo diretto poi Milab dal dottor Borgarello, e con alcuni tesisti ha studiato addirittura dei cementi da riciclo inclusivi del verde. Sapete che il cemento è alcalino, brucia il verde, invece questi cementi con degli studi particolari riciclano cemento che prima era stato usato nelle costruzioni, diventano addirittura inclusivi e quindi più ecocompatibili, piuttosto che materiali per me interessantissimi come il Green Beats di Komatsu Seiren, che è un prodotto giapponese che in realtà non ha intenzione a questa società di portare in Italia dal Giappone, ma di introdurre una tecnologia, cioè del riciclo dei fanghi industriali. Loro sono un grande gruppo tessile, quindi produceva molti fanghi. Ecco, dalla depurazione, diciamo, delle acque o industriali o civili potrebbe essere. Ecco, quando si depura restano sul fondo del depuratore, sì, questi fanghi che poi sono corpi di batteri. Assolutamente, quindi vanno, in questo caso il processo ideato da Komatsu Seiren è quello di cuocerli come fossero appunto produrre delle piastrelle, ma anche degli autobloccanti, quindi torniamo ancora ai mattoni, piuttosto che, parlando di autobloccanti, a delle tessere a pavimento che però sono drenanti. Quindi il vantaggio è di, qui si parla di upcycle, cioè di creare un prodotto da un prodotto che non aveva valore e dargli un nuovo valore. Ecco, così che all'industria conviene ovviamente studiare materiali che non siano tossici e non pericolosi, ma invece di pagare per smaltirli, investire nel trasformarli e dare un nuovo prodotto. Qui si tratta quindi ancora una volta di creare dei cicli, come fa la natura. Pensate che questi prodotti saranno utilizzati nello stadio di Tokyo. Io sono stato proprio due settimane fa da Ken Gokuma, che conosco molto bene, mi ha fatto vedere il progetto del nuovo stadio, e proprio questi materiali saranno molto presenti, visto che si parla di Horizon 2020 a Tokyo 2020. Ecco, tra l'altro un tema molto divertente, perché adesso stiamo parlando per esempio di, diciamo, di scarti che normalmente sono prodotti in quantità enormi, no? Mozziconi di sigaretta piuttosto che fanghi di depurazione sono quantitativi giganteschi. Poi ci sono anche delle situazioni più puntuali, per esempio abbiamo parlato qualche tempo fa della lana di pecora sarda, che è un tipo di pecora che produce una lana impossibile da filare, e lì sono riusciti a farci degli ottimi materiali isolanti, dei pannelli isolanti per l'edilizia. Beh, assolutamente, l'orbace sardo era noto perché lo usava l'esercito italiano, anche perché era un po' spinoso, però era assolutamente impermeabile, molto resistente, e sono fibre, quindi queste fibre derivano dalla natura, la natura che ce le regala, e quindi credo che anche in una zona bellissima, quella Sardegna, che produce formaggi e enogastronomia eccezionale, che nella filiera ci sia anche la lana che non butto via ma riuso e rientra in un ciclo bio, se volete, però al di là del romanticismo ancora una volta della questione ecologica, ma diventa un materiale con prestazioni, questo ci interessa. Ecco, un altro progetto di cui abbiamo parlato quest'anno è il progetto Medonia dell'Enea, che cerca di dare invece una risposta al problema della posidonia, come sapete quella pianta acquatica di cui in certe stagioni dell'anno si arenano grandi quantità sulle spiagge italiane. In realtà, essendo una pianta acquatica, perde le foglie, quelle sono le foglie, il ricambio, diciamo, stagionale di foglie. Ebbene, che cosa ci possiamo fare con queste foglie di posidonia? Ce lo spiega Sergio Chiappucci, ricercatore dell'Enea, che abbiamo intervistato qualche tempo fa. Sentite com'è andata. questo materiale è fastidioso, alcuni non lo gradiscono per l'odore, ma sicuramente occupa spazio utile invece la balneazione al turismo, che è uno dei motori portanti della nostra economia. Ecco, quanto ce n'è di questa Poseidonia? È un problema quello degli accumuli, che riguarda circa il 60% delle coste del Mediterraneo. Ecco, e voi come pensate appunto di riutilizzarla? Avete immaginato degli utilizzi? Esatto, abbiamo cercato di evitare il conferimento in discarica e abbiamo pensato a delle procedure proprio che possano riutilizzare questo materiale per favorire il turismo. Facciamo qualche esempio. Creare degli imbottiti, dei cuscinoni su cui far adagiare comodamente i turisti, sì, sia sulla spiaggia sia sulle coste rocciose, che oggi invece vengono quindi delle stuoie balneate. Imbottite, potremmo chiamarle così, dove, esatto, per cui sono comode anche su un terreno un pochettino accidentato. Dissestato. E cosa state facendo invece a Favignana? Stiamo provando diverse cose, stiamo realizzando e testando sul territorio proprio le stuoie, dei tappetini, degli schermi solari per gazebo, passerelle per camminamenti, cioè tutta una serie di oggetti che sono riempiti con le foglie della Poseidonia per rendere più fruibile proprio le coste rocciose e alcune spiagge. Okay, d'accordo. C'è una partecipazione degli stabilimenti balneari, sì, una partecipazione di alcuni sponsor, proprio aziende leader del settore, okay, del design, che si sono rese disponibili a creare dei primi prototipi. Era Sergio Chiappucci dell'Enea, ma restando in tema di rifiuti maleodoranti, un altro progetto che vogliamo segnalare è quello portato avanti dalla National Science Foundation, agenzia di ricerca scientifica degli USA. In questo caso parliamo di un bioasfalto fatto con letame suino, letame quindi dei maiali, che dopo essere stato miscelato con sabbia o ghiaia produce una sostanza appunto molto simile al bitume praticamente. Oggi questa sostanza è in fase di analisi, naturalmente data l'origine poco nobile della materia prima, ma insomma a breve dovrebbe essere anche commercializzata. Ecco, Marco Imperadori, il tema di questo speciale ci ha trascinato, diciamo così, verso forse l'ultima curiosità di questa puntata, che ci porta a Piacenza, ed è veramente una cosa un po' particolare. Ma sì, particolare, adesso ci prenderanno per Cruciani e Parenzi. Tratta del Museo della Merda, così, è sta a Castelbosco, a Piacenza, l'ha inventato Gian Antonio Locatelli con Luca Cipelletti. E pensate, si trova in una zona di eccezionale pregio per noi, perché produce il formaggio, quindi un formaggio di grande qualità, e che per far questo formaggio, se pensate, al giorno vengono prodotti 500 quintali di latte. Questi 500 quintali però ogni giorno danno anche 1500 quintali di sterco. Ah, però. Allora questi signori, sì, questi 1 a 3. Sì, 1 a 3, cioè 1 quello che otteniamo come prodotto di qualità, tre, poi da altri scarti, e 3 sullo scarto che ci danno le mucche. E a questo più gas, più eccetera, tante cose che noi sappiamo. Cosa fanno questi signori? Ottengono diverse cose da questo materiale che sembrerebbe non aver più valore. Energia e elettricità, tra l'altro coinvolgendo artisti e quindi creando veramente un luogo diverso, cioè innovando, questa è vera innovazione. Quindi producono 3 megawattora, riscaldano edifici e uffici, producono elettricità, ottengono concime e poi dalla cacca, sì, ottengono un materiale utile e vivo. L'hanno anche brevettato, si chiama merda cotta. Ah, fantastico. Fantastico, per la serie non lasciamo dubbi all'interpretazione. No, assolutamente. Hanno anche preso il premio al Milano Design Award al Salone del Mobile quest'anno. D'altra parte, adesso lasciami dire, visto che abbiamo sdoganato la parola, che insomma il tema della merda d'artista e quant'altro, insomma. Assolutamente. Come dire, certe volte ci sono degli stereotipi su questo, no? Però in realtà noi pensiamo che questo, come gli altri cicli più sintetici, alla fine è ciò che noi produciamo. E allora non possiamo pensare sempre di usare come creditore alla natura e quindi di deputare a lei quello che succede dopo che noi abbiamo fatto qualcosa di bello, di buono, ma in realtà pensare che anche da lì ci sono delle opportunità. Per esempio, loro ottengono vasi, mattonelle, piatti. Pensiamo, secondo me, un giorno io penso che potranno diventare mattoni da costruzione, facciate in terracotta come quelle che vediamo in bellissimi edifici, perché no? Quindi c'è un processo dietro che tende a ridurre appunto lo spreco. E se noi ci pensiamo bene, che cos'è il petrolio? È una sorta di albero secolare che noi non dovremmo toccare, no? Mentre invece la cacca, che cos'è? È lo stesso albero a crescita rapida, perché sì, in realtà entrambi hanno la stessa derivazione biologica. E mi sembra un'ottima conclusione. Grazie Marco Imperadori. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui, ma torniamo domani, sempre alla stessa ora. Parleremo della rivoluzione delle self-driving car. Avremo ospite Carlo Ratti dal MIT di Boston. Buona continuazione qui su Radio 24.